Altra cosa importante da analizzare in questi giorni è la capacità dei movimenti latinoamericani di poter dare le gambe, diciamo, a queste iniziative politiche che ora stanno attraversando soprattutto alcuni paesi dell'America Latina. Io basti ricordare il nuovo dinamismo a livello di politica internazionale dell'Argentina e del Brasile. Ci sono una serie di elementi, secondo me, molto importanti da tenere a mente dal punto di vista della conformazione politica del continente. Da una parte c'è appunto questo tentativo di Brasile e Argentina di essere un po' il nocciolo duro di un mercato regionale, quindi dell'allargamento del Mercosur anche al patto andino, che possa garantire una maggiore contrappeso sia ai programmi degli Stati Uniti di una area di libero scambio dell'America, l'ALCA, sia però anche del negoziato dopo Cancun, del Development Round di Doha. Ora, questo tema del libero commercio, delle condizioni per il libero commercio, sarà centrale, una delle assemblee popolari dei prossimi giorni, alle quali parteciperà anche l'attivista filippino Walden Bello. Tra l'altro è importante anche notare che alcuni dei temi critici anche per la democrazia in America Latina vengono affrontati, anche se in seminari paralleli. Uno è quello della militarizzazione strisciante, che non riguarda soltanto il Plan Colombia o la Colombia, ma anche i territori indigeni di molti paesi. Basti pensare al caso di Sarajaco qui in Ecuador. Un'assemblea sulla democratizzazione della democrazia, un tema che non è assolutamente banale, perché si deve ricordare che, ad esempio, di recente un rapporto commissionato dall'UNDP per l'America Latina dimostra che esiste un alto tasso di sfiducia nei confronti delle democrazie in questo paese, in questo continente, un livello di accettazione piuttosto preoccupante anche di ipotesi di governi autoritari, a condizione che questi garantiscano lo sviluppo sociale. Esiste quindi un forte nesso, per ritornare anche al tema iniziale del debito, tra gli effetti nefasti dell'indebitamento estero del continente e il deterioramento anche della fiducia nei confronti di modelli di democrazia rappresentativa. E quindi questa crisi, questo impasse, può essere risolta elaborando delle proposte politiche per la soluzione del debito estero da una parte, ma anche rinnovando i modelli di democrazia partecipativa. E questo può succedere sia a livello locale e territoriale, ma anche a livello continentale, con la capacità di questi movimenti di potersi collegare in maniera coerente e stabile con i movimenti globali che da Porto Alegre in poi stanno continuando a svolgere un ruolo di primo piano per il rinnovamento della politica.